Martedì 15 marzo al Circolo Arci Brecht andrà in scena lo spettacolo teatrale Storie delle ragazze di ieri e siamo qui per parlarne con l'autrice Donatella Allegro. Buongiorno Donatella e bentornata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno Rachele, buongiorno a tutti e a tutti e grazie per avermi voluta con voi. Ti chiedo innanzitutto Donatella, chi sono queste ragazze di ieri, prendendo appunto spunto dal titolo? Allora, il titolo devo dare i crediti giusti, è a sua volta tratto da una piccola pubblicazione che mi era stata segnalata, pubblicata dal Comune di Roma anni fa, difficile da trovare, ma come accade spesso, piccole chicche che a me piace recuperare. Le ragazze di ieri sono quelle donne, diciamo, della terza ondata del femminismo, cioè quelle che, diciamo, tra gli anni, fine anni 60, anni 70, ma in realtà attivissime ancora oggi, che hanno fondato non solo i luoghi delle donne, che oggi ci ritroviamo in tante città, ma che hanno fondato anche un po' una nuova idea del femminismo, oggi ancora più avanzata rispetto a tutto il femminismo intersezionale nuovo, però diciamo quelle del femminismo storico, delle grandi lotte, quello per l'aborto, il divorzio, la riforma della legge sul delitto d'onore, del codice civile sul diritto d'onore, eccetera, eccetera. Diciamo le donne che hanno portato avanti le grandi battaglie e ci hanno consegnato, diciamo, un'idea della donna diversa, per cui ancora oggi lottiamo per la sua piena, diciamo, attuazione, e sono un po' le donne, diciamo, da cui quelle della mia generazione hanno imparato cos'era il femminismo, cos'erano le lotte da ricordare e da portare avanti. Lo spettacolo parla poi in realtà della storia di un luogo molto particolare, no? Che è la Casa Internazionale delle Donne di Roma. Poi lo spettacolo in realtà ha debuttato nel 2019 quando la casa rischiava di essere chiusa, poi per fortuna non è andata così, quindi racconti una storia a lieto fine. Oggi posso dire che è una storia a lieto fine, però effettivamente quando è nato questo spettacolo nel 2019 per un'occasione che mi arrivò appunto a Roma all'interno della famosa estate romana, che è un po' la versione storica, diciamo, della nostra estate bolognese, mi arrivò questa proposta di fare un lavoro sulle donne da parte dell'AMO, dell'archivio divisivo del Movimento Operaio Democratico, un archivio molto grosso di testimonianze video sostanzialmente. Mi arrivò la proposta di creare un monologo, una storia dedicata alle donne. Allora ero su Roma e la questione, diciamo, della Casa Internazionale delle Donne era molto accesa e decisi di lavorare su questo. Appunto, la Casa Internazionale delle Donne di Roma è un caso specifico, però è un caso emblematico, perché in realtà la sua storia è un po' la storia di tutti i luoghi delle donne. I luoghi delle donne che ci ritroviamo oggi, le case delle donne nelle varie città, le biblioteche delle donne, le librerie delle donne, tutti questi luoghi che sono tuttora punti di riferimento importanti, non per una sola associazione, per un solo gruppo, ma per tutte le donne. E oggi possiamo dire un po' anche per gli uomini, perché finalmente ci stiamo affacciando un'idea di femminismo come lotta appunto per migliorare la vita di donne, ma anche uomini. Questi luoghi sono nati più o meno tutti nello stesso periodo, cioè tra fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, per poi, tra virgolette, taglio un po' con l'accetta, ma per intenderci, istituzionalizzarsi negli anni 80, prendere degli spazi pubblici e poi diventare dei laboratori permanenti, che ogni tanto vanno in crisi, come è accaduto alla Casa delle Donne di Roma, perché a un certo punto era stato messo, la storia di Roma fu che era stata messa questa, l'edificio attuale, diciamo, in via della Lungara, assegnato formalmente nel 95, però, diciamo, ristrutturato e finalmente reso abitabile nel 2001, era soggetto, diciamo, a una convenzione che era stata messa in discussione dall'allora sindaca Virginia Raggi, che aveva ritenuto che fosse il momento di rimettere a bando lo spazio perché da troppo tempo era occupato dalle stesse persone. Questo però ha creato una grande mobilitazione nazionale e in alcuni casi anche internazionale in difesa di questo luogo, per il quale si sosteneva che sì, chiaramente occupava uno spazio pubblico, ma che al pubblico molto dava, perché questi luoghi spesso sono dei luoghi diciamo che danno servizi che altrove non ci sono: assistenza alle donne, sportelli, assistenza legale, ma anche semplicemente luoghi di aggregazione e di espressione artistica. Questo io racconto la storia della Casa Internazionale delle Donne di Roma, ma chi ascolta questa storia si può riconoscere molto in un passaggio generazionale che è accaduto, ripeto, in altri luoghi, ma che accompagna veramente gli ultimi decenni e credo la storia di chiunque li abbia vissuti, o anche chi, come nel mio caso, non li ha vissuti direttamente, ma li ha respirati. Ecco, io personalmente per esempio ho vissuto molto la Biblioteca delle Donne di Bologna, che non ha una storia così dissimile. Molti di questi spazi nascono dalla necessità di avere uno spazio separato, uno spazio di elaborazione per le donne, e in questi anni accadeva, all'inizio degli anni 70, che l'esperienza del separatismo, cioè le donne che venivano dai movimenti e anche dai partiti, a un certo punto cominciano a dire: noi vogliamo fare politica, sì, nel movimento studentesco, nei partiti, nelle strade, eccetera, ma abbiamo anche bisogno di spazi di elaborazione separati, riservati alle donne, perché solo negli spazi separati noi ci sentiamo libere di affrontare le cose in modo diverso, quindi parlare del corpo, parlare del rapporto col potere, del rapporto con la politica, e anche, perché no, aspetti più artistici, riscoprire scrittrici donne, riscoprire artiste donne, valorizzare il lavoro delle donne, che tante volte c'è ma non è sufficientemente valorizzato, perché un po' in virtù del famoso soffitto di cristallo, un po' della fatica anche storicamente a superare, diciamo, un certo canone che mette sempre solo uomini, diciamo, tra i grandi protagonisti della storia, queste grandi donne in realtà vengono un po' dimenticate. E allora creare due luoghi dove si fa una cultura del femminile, che poi diventa un punto di riferimento sia per i servizi, sia per le attività culturali, sia anche banalmente per fare le feste, per stare insieme. Assolutamente. Bene, io ti ringrazio veramente, Donatella, per averci raccontato qualcosa in più sulla storia della Casa Internazionale delle Donne di Roma, perché magari qui a Bologna c'è chi non la conosce, no? Giustamente. Quindi grazie ancora, e ricordo che insomma il tuo spettacolo andrà in scena martedì 15 marzo, Storie delle ragazze di ieri. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao.